piangi e sorridi, ho paura di me, perché potrei non capirti. Ho paura di noi, condannati a cambiare, a dipingere il mondo con un colore uguale. Ho paura di te, quando arrivi nel sonno. Ho paura di me, perché poi perdo il controllo. Ho paura di noi, che vaghiamo a caso per le strade di un mondo che non riconosciamo, ma che ci ricorda che eravamo felici, eravamo felici, ma che ci ricorda che eravamo felici. E mi ricordo quanto eri felice, quanto eri felice. E mi ricordo quanto eri felice. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ho paura di te, che mi fissi negli occhi. Ho paura di me, che non trovo il coraggio. Ho paura di noi, isolati tra la gente, aspettando in silenzio la fine di questo presente. Vissuto insieme quando eravamo felici, vissuto insieme quando eravamo felici. E mi ricordo quanto eri felice, quanto eri felice. E mi ricordo quanto eri felice. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ho paura di tutto quello che mi succede. Sono prigioniero, ma senza catene. Ho paura se adesso che ti rivedo il cuore non batte, perché te lo sei preso, perché te lo sei preso. Ma adesso ricordo quanto ero felice, quanto ero felice. Ma adesso ricordo quanto ero felice. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ma adesso ricordo quanto ero felice, quanto ero felice. Ma adesso ricordo quanto ero felice con te.